your money si bolingo. Nako sala maso, boni mangai wana moto. Nako le la butu na moyo. Nako kufa ole ananga. Soki yo boingai, nako simba lokasa. Yeah.